Facciamo alcune riflessioni in merito agli anziani, cioè i conduttori di chiesa, chiamati anche vescovi, presbiteri, sorveglianti, custodi, ispettori, episcopi. Essi sono indiscutibilmente un'autorità nella Chiesa e la loro figura è certamente la più importante e indispensabile perché possa esserci crescita in una comunità. La loro autorità deve essere riconosciuta e accettata da tutti i membri di Chiesa. Questo è l'insegnamento. Addirittura alcuni, per far comprendere l'importanza del rispetto dell'autorità, si rifanno ad un episodio descritto nel libro dei Numeri 12:8, nel quale l'Eterno rimprovera Aaron e Maria perché non hanno avuto timore di parlare male di Mosè, l'autorità indiscussa a quel tempo. Ciò è vero, ma come in tutte le cose vi è il rovescio della medaglia. La realtà è che ci sono conduttori autoritari che abusano dell'autorità, episcopi che mettono in crisi una chiesa locale. Ho pensato a lungo a come si possa si arrivare ad avere dei tiranni in un'assemblea e mi sembra di aver compreso che vi sia un errore di fondo. Per alcuni credenti, gli anziani non devono e non possono essere messi in discussione, un concetto a volte tanto messo in rilievo da portare certi conduttori a insegnare che essi sono intoccabili sotto ogni punto di vista. La loro autorità è assoluta e indiscussa. Ma se la parola di Dio abbonda in esortazioni ad essere sottomessi a tutte le autorità, compresi i conduttori di una chiesa, è anche generosa nel segnalarci che i conduttori o vescovi devono e possono essere messi in discussione e giudicati. Proprio perché si è dimenticato che le autorità anche in campo religioso sono esseri umani soggetti, quindi come tutti gli eventuali errori, è opportuno prendere in esame la valutazione di un grande studioso sul potere del romanesimo. Il potere assoluto corrompe chi lo possiede e in tutta la storia possiamo. Nel caso in cui si tratti di un potere spirituale che governi le coscienze degli uomini, il rischio diventa ancora maggiore, in quanto il possesso di un tale potere esercita un fascino pericoloso e porta contemporaneamente ad ingannare se stessi, poiché la sete di dominio, quando diventa passione, è molto facile da giustificare con il pretesto dello zelo per la salvezza altrui. E se l'uomo ha in mano questo potere assoluto, nutre anche la convinzione di essere infallibile e di essere uno strumento dello Spirito Santo, soprattutto se è cosciente del fatto che una sua decisione in campo morale o religioso verrà accolta dalla sottomissione generale. A ciò va oltre aggiunto il concetto, diligentemente inculcato da Roma per secoli, che ogni conclave sia la scena del trionfo finale dello Spirito Santo che guida l'elezione nonostante gli artifici dei rivali, e che il nuovo Papa sia lo strumento speciale scelto dalla grazia divina per portare a compimento il progetto di Dio nei riguardi della Chiesa e del mondo. Occorre prendere sul serio le autorità stabilite da Dio, ma occorre prendere altresì con altrettanta serietà il dato di fatto che il potere assoluto è in grado di corrompere in modo perentorio chi lo esercita. La storia ne è testimone. A nulla serve leggere la storia con i guanti bianchi, come a nulla serve mettere da parte o nascondere la storia del papato. Meno emblema del potere, meno senza ammettere che spesso i papi sono stati dei barbari, o che i buoni papi a volte abbiano causato più danni di quelli cattivi. E, vero come disse qualcuno, la storia mina il rispetto. Ma se si valuta la storia non si fa per voler colpire, piuttosto perché se la storia meno, cioè i fatti avvenuti meno, non ha nulla da insegnarci, nient'altro potrà esserci di insegnamento. E, vero che la conoscenza dei fatti a volte non porta saggezza, ma l'ignoranza non la porta mai. Perciò prendere in esame il lato umano dei conduttori di un'assemblea non significa mancare di rispetto nei loro confronti e alla loro autorità, ma prima di tutto è un atto di umanità considerarne anche le manchevolezze. Inoltre è un modo per evitare di arrivare a degli abusi del potere assoluto. Se si considera la storia dei papi di Roma, si nota come essi non siano stati affatto infallibili. Molti di essi commisero errori clamorosi, parecchi furono eretici, contraddissero i precetti del cristianesimo, si contraddissero l'un l'altro, e non di rado, contraddissero anche se stessi sui fondamenti della dottrina cristiana. Forse l'esempio più evidente di come il potere possa togliere l'obiettività lo ha dimostrato il cardinale Bellarmino, vissuto nel XVII secolo, nel suo libro sul papato de Romano Pontificio. In esso troviamo scritto: «Il Papa è il giudice supremo quando si tratta di decidere su questioni controversie di fede e di morale». Poi, nello stesso libro affermò: «Se il Papa cadesse in errore imponendo il peccato e proibendo la virtù, la Chiesa dovrebbe ugualmente considerare il peccato un bene e la virtù un vizio, altrimenti peccherebbe contro la coscienza». Se questa è la realtà dei fatti, nonostante che i papi siano circondati da moltissime persone più che istruite e preparate in ogni materia, è comprensibile come dei conduttori di una comunità, a volte non sufficientemente istruiti o preparati per tale compito da una scuola biblica il cui indirizzo teologico che non riconosce la Bibbia quale parola di Dio inerrante e come fonte di autorità in materia di fede e di condotta, possano anche commettere errori di vario genere, dai dottrinali a quelli morali. Con queste premesse riflettiamo sul lato umano dei conduttori prendendo in esame 5 brani della parola di Dio. A 1 Timoteo 5, 17-21. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono 2 o 3 testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore. Ti scongiuro, davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità». Queste disposizioni di Paolo mettono in evidenza 5 verità. 1. Gli anziani che esercitano bene la presidenza. Questa affermazione di Paolo sottintende che non tutti i presbiteri o vescovi svolgono bene il loro compito o non conducono bene la Chiesa. Perciò che i conduttori fossero fallibili era una realtà anche al tempo degli apostoli. In effetti, nella terza lettera di Giovanni, indirizzata a Gaio, l'apostolo nomina un certo Diotrefe, il quale aspirava ad avere il primato tra i credenti. Per quanto se ne parli, per quanto si indirizzi il credente al servizio e all'umiltà, la sete di potere in lui è più forte della sete d'acqua, fino a farne un dittatore. Spesso dimentichiamo che il dittatore non si evidenzia subito come tale, e quando si manifesta è ormai troppo tardi per opporsi alla sua ascesa. Basti pensare a Nerone. Iniziò il suo regno a 17 anni, sotto i migliori auspici. Influenzato dal filosofo Seneca, il giovane imperatore restaurò il potere del Senato, riorganizzò l'amministrazione dello Stato, inoltre riconobbe agli schiavi liberati il diritto di lavorare per essa, e si rese protagonista di molti atti di clemenza, dei quali, durante il regno dei suoi predecessori, si era perduto il ricordo. Ma a 22 anni uccise la madre, a 25 uccise la prima moglie, a 28 la seconda e il filosofo Seneca, assieme ad altre persone. Di solito il credente ritiene questi comportamenti attribuibili solo agli increduli, ma anche i grandi uomini di Dio, come il classico episodio del re Davide, che uccise un suo valoroso soldato e commise adulterio, possono sbagliare. I credenti non devono quindi idolatrare nessun conduttore, ma essere sempre consapevoli che un vescovo è un essere umano soggetto a possibili errori. 2. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono 2 o 3 testimoni. Alcuni credenti hanno superenfatizzato il concetto di sottomissione, al punto da temere di usare il buonsenso e la coscienza. Non riescono ad ammettere, neanche a loro stessi, che il responsabile di una comunità possa sbagliare. Ma i presbiteri possono errare e anche essere chiamati a rispondere dei loro errori. Poiché è di massima importanza proteggere gli innocenti da false accuse, il Signore aveva stabilito nella sua legge che l'accusa di colpevolezza verso una persona doveva essere formulata da almeno 2 testimoni, Deuteronomio 19 e 15. Questo modo di agire evitava 2 errori. Non si censura un conduttore perché viola le nostre preferenze personali o su qualcosa che ci sembra sbagliato. Succede spesso che le accuse rivolte a dei conduttori siano solo maldicenze, basate su supposizioni o su inesatte interpretazioni. Per questo la parola di Dio ordina di giudicare solo dopo aver ascoltato entrambe le versioni, Proverbi 18 e 17, e di controllare attentamente ogni cosa. A volte penso a quel giorno in cui, mentre camminavo, vidi a terra un giornale pornografico. Lo raccolsi perché non cadesse in altre mani e proseguì intenzionato a buttarlo nel bidone del pattume più vicino. Misi la rivista in tasca, poiché nonostante non mi appartenesse me ne vergognavo, e camminando verso il bidone della spazzatura pensavo all'eventualità di un infarto. Leggevo pubblicazioni. Tale rivista, qualcuno avrebbe concluso che, trovandomi addosso pornografiche e, cosa peggiore, essendo un cristiano, un predicatore e soprattutto un conduttore di chiesa, avrei scandalizzato molti credenti. Prima di giudicare occorre essere molto sicuri. Se un episcopo ha veramente sbagliato, egli deve essere ripreso perché un atteggiamento debole nei suoi confronti è deplorevole, equivalendo a favorire una propagazione del male. Con la riprensione si fanno tacere anche le maldicenze. Perché si parla spesso di maldicenze? La maldicenza è un peccato particolare, perché mentre non c'è, è bisogno d'esortazione perché si fugga da certi mali. Dato che sono odiosi in se stessi, la maldicenza ha la caratteristica di essere piacevole, di essere attraente come un dolce. Infatti così sta scritto nel libro dei Proverbi, 18:8. Le parole del maldicente sono come bocconcini prelibati, che scendono fino nell'intimo delle viscere. Perciò, un conduttore deve essere protetto sia come essere umano sia come autorità, ma non a discapito della verità. Chi ama la verità più di ogni altra cosa onorerà ciò che è giusto e proclamerà ciò che è ingiusto, anche se questo è un conduttore. 3. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti. Da questa affermazione è evidente che il peccato di un conduttore non può rimanere nascosto. Per peccato si intende certamente non lo sbaglio occasionale, ma un cammino nell'errore. L'affermazione alla presenza di tutti può significare tanto alla presenza degli altri episcopi, come alla presenza della Chiesa. Lo scopo di questo metodo non è quello di umiliare chi ha sbagliato, ma che vi sia timore nella Chiesa e tutti conoscano i fatti alla fonte. 4. Ti scongiuro, davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi. Notiamo con quale solennità Paolo invita a non avere pregiudizi. Il pregiudizio è l'atteggiamento più comune, consiste nel formarsi un'opinione di qualcuno prima di averlo conosciuto, e è spesso ricorrente nei rapporti fraterni. Paolo invita i credenti ad onorare e rispettare i vescovi per quello che sono, e non per l'idea che abbiamo di loro. Purtroppo i credenti spesso onorano o condannano un conduttore, basandosi su un'opinione arbitraria trascendente ciò che i fatti presentano in merito alla persona e all'operato. Quando un figlio di Dio rimane deluso da un conduttore, dimostra di essersi illuso in precedenza. Impariamo a conoscere bene le persone e a valutarle nel modo giusto se vogliamo una buona conduzione di Chiesa. 5. E di non fare nulla con parzialità. Purtroppo, nonostante l'ordine sia chiaro, noi facciamo delle parzialità o delle differenze. Questo perché è il più bravo, questo perché è il più giovane, questo perché è il più vecchio, questo perché è importante. E così il nostro modo di giudicare il conduttore non è senza favoritismi. Mi rendo conto che a volte si cerca di essere parziali perché si pensa di agire con amore o perché non si vuole ferire, ma l'amore vero opera sempre nella verità. Quando l'amore è disgiunto dalla verità, dovremmo rivedere il nostro operato. L'imparzialità deve essere presente soprattutto se il conduttore svolge il compito di predicatore. Parlino due o tre profeti e gli altri giudichino. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. 1 Corinzi 14:29. Paolo stabilisce che i predicatori devono essere esaminati da altri predicatori. Perciò un conduttore che predica, 1 Timoteo 5,17, può e deve essere messo in discussione da chi ha lo stesso compito. Essere conduttore della comunità non prova necessariamente la verità né l'indiscutibilità di tutto quello che si afferma. Un simile atteggiamento favorisce la dittatura e quando questo avviene, parte della colpa è anche di coloro che non fanno il loro dovere. Rispettiamo dunque l'autorità del conduttore tenendo presente il suo lato umano. B. Ebrei 13,17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Ancora una volta la parola di Dio ordina ai credenti di essere sottomessi ai conduttori. Il termine ubbidire in greco è peito ed è diverso da hupakuo, che viene usato con riferimento all'ubbidienza dei figli ai genitori, Efesini 6,1, Colossesi 3,20, o dei servi al padrone, Efesini 6,5, Colossesi 3,22. Ubbidire nel senso di hupakuo è ascoltare e così ubbidire, mentre ubbidire nel senso di peito vuol dire persuadere, guadagnare la fiducia, influenzare. Etimologicamente peito è intimamente legato con pisteuo, che vuol dire avere fiducia. Perciò si può affermare che peito indica quell'obbedienza che è prodotta dalla fiducia. Da questo confronto si intravede che mentre i genitori possono imporsi ai figli, nel governo della Chiesa si deve cercare non tanto di imporsi ma di influenzare positivamente il popolo di Dio in modo da guadagnarne la fiducia, da convincerlo e persuaderlo affinché l'obbedienza sia anche volenterosa e gioiosa sottomissione ad un governo che dirige ma che anche pasce, che regge, che cura, che corregge, che ama. In questo brano prendiamo in esame tre aspetti. 1. Essi vegliano per la vostra vita, è compito dell'anziano vigilare per il bene della Chiesa, per questo tutto ciò che propone deve essere a favore dei credenti, deve stimolarli a vivere pienamente la vita cristiana. Il compito di un anziano è far sì che ogni credente raggiunga la maturità cristiana e non indurlo a dipendere da lui per tutta la vita. Purtroppo è una realtà di tante chiese che i conduttori non si preoccupino di formare dei successori. L'errore di questi sorveglianti protrattosi per tutta la loro vita è stato di non cercare e suscitare dei fratelli in grado di sostituirli. Un episcopo che governa secondo i parametri di Dio non è solo colui che si comporta bene, ma anche chi guarda al futuro per il bene della Chiesa. L'affermazione «quando sarò morto faranno quello che vogliono» non procede da carità cristiana. 2. Come chi deve renderne conto. Essere un conduttore è una grande responsabilità. Di ogni pecora che si smarrisce, che si perde, che si scandalizza, di ogni pecora ferita, egli deve rendere conto. Molto solenni sono le parole che l'Eterno rivolge mediante il profeta Ezechiele ai pastori che non si curavano delle pecore, 34:1-10. Proprio perché il compito di pastore o conduttore è arduo e difficile, l'Apostolo Paolo giustamente scriveva che se uno desidera il compito di conduttore desidera una cosa buona, ma se l'intenzione non è sana, allora è meglio non essere un pastore di anime piuttosto che svolgere tale compito con leggerezza. Chi è sottomesso deve pregare per i conduttori perché, come disse qualcuno, se vogliamo dei conduttori migliori, preghiamo per quelli che abbiamo. 3. Affinché facciano questo con gioia e non sospirando. L'anziano può arrivare a svolgere il compito sospirando. Altre traduzioni riportano il verbo gemere, che dà l'idea di colui che porta avanti un compito lamentandosi. Non giova ad una chiesa avere dei conduttori che svolgono il loro compito senza un reale desiderio di farlo. Quando un anziano si lamenta della chiesa significa che è giunto per lui il momento di rivedere il suo impegno. Quando una chiesa si lamenta dei propri sorveglianti, gli anziani stessi dovrebbero verificare cosa non va, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità, ossia condurre un gregge dove regnano le rimostranze non porta a nulla. C. Ebrei 13,7. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. In questo brano prendiamo in esame un solo aspetto. Considerando quale sia stata la fine della loro vita, la parola di Dio ci invita a considerare come è terminato il cammino cristiano dei conduttori. Ciò è saggio, perché quasi tutti i credenti iniziano bene, ma pochi terminano, come il re Davide, la loro corsa verso il premio, dopo aver eseguito il volere di Dio nella loro generazione, Atti 13 e 36. Vi sono anziani che all'inizio del loro ministero sono comprensivi, servizievoli, generosi, altruisti, ma in seguito cadono in discredito e nel laccio del diavolo, 1 Timoteo 3, 7. La vita del re Saul ne è un esempio. Aveva iniziato non sentendosi degno di tale compito, ma in seguito cadde vittima dell'orgoglio. La parola di Dio ci dà delle certezze per quanto riguarda le promesse divine. Ma nessun credente, compreso il vescovo, può essere sicuro di rimanere fedele fino alla fine. Inoltre, non tentiamo i presbiteri con le lodi. Incoraggiamoli, ma non mettiamo in enfasi le qualità e l'operato dei conduttori, riconoscendoli e dichiarandoli meritevoli di lode, perché la nostra vista è troppo corta per giudicare rettamente il grado di pietà di un altro. Un giorno qualcuno, dopo essere stato applaudito abbastanza lungo, disse: «Grazie per gli applausi e anche perché non sono stati molto lunghi, dato che non riesco per molto tempo a nascondere la maschera dell'umiltà». Di 1 Pietro 5, 1 a 5. Esorto dunque gli anziani che sono tra di voi, io che sono presbitero con loro e testimone delle sofferenze di Cristo, e che sarò pure partecipe della gloria che deve essere manifestata. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi, sorvegliandolo, non per obbligo, ma volenterosamente secondo Dio, non per vile guadagno, ma di buon animo, non come dominatori di quelli che vi sono affidati, ma come esempi del gregge, e quando apparirà il supremo pastore, riceverete la corona della gloria, che non appassisce. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani, e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. In questo bellissimo brano di Pietro, che si presenta come conduttore, cogliamo 6 verità. 1. Pascete il gregge di Dio che è tra di voi. Un conduttore, per essere tale, deve pascere il gregge, e pascere significa nutrire. Non si è vescovi solo per governare, ma occorre che le pecore siano nutrite spiritualmente, e questo presuppone che il sorvegliante debba essere una persona preparata nello studio e nell'insegnamento, oltre ad avere la maturità spirituale necessaria. Quando l'anziano pasce il gregge di Dio, non è che debba fare tutto lui. Egli ha il compito e il dovere di interessarsi che altri con i loro doni aiutino all'edificazione della Chiesa, e ciò gli eviterà anche di cadere nell'orgoglio. Per questo il conduttore avrà al suo fianco dei diaconi. Il diaconato non è automaticamente il trampolino di lancio verso l'anzianato, ma una chiesa senza diaconi si troverà in futuro in serie difficoltà per avere degli episcopi. La funzione dei diaconi è quella di aiutare nelle cose pratiche, nell'evangelizzazione, nell'insegnamento. Per l'intima associazione che dovrebbe esistere tra gli anziani e diaconi, la conduzione della Chiesa è esplicata da entrambi, anche se la responsabilità ultima per l'andamento dell'assemblea è dei sorveglianti. 2. Sorvegliandolo. Ogni gregge ha un nemico, il lupo. I credenti sono esposti ad essere preda di filosofie, di dottrine sbagliate, di tentazioni, di persone religiose avide di far proseliti. Questi sono alcuni dei lupi rapaci. Il vescovo deve essere accorto e prudente come un serpente, perché le pecore non siano preda dei lupi. Inoltre, la sensibilità di un conduttore starà nel comprendere quando una pecora ha inclinazioni dottrinali diverse da quelle che lui professa. Se dopo un breve colloquio le divergenze rimangono, è saggio da parte dell'anziano indicare al credente una comunità dove potrebbe trovarsi meglio. Questo, a mio avviso, si chiama amore, sensibilità, vigilanza. 3. Non per obbligo. Se è di per sé negativo svolgere un servizio qualsiasi per forza, quanto più essendo costretti a svolgere il compito di anziano. Condurre una chiesa è una scelta fatta prima davanti a Dio, ma può succedere a volte di trovarsi alla guida di una chiesa costretti da certe circostanze, o dovute al timore di perdere una posizione o alla mancanza di un sostituto. Condurre una chiesa deve essere fatto volenterosamente secondo Dio. 4. Non per vile guadagno. Al tempo degli apostoli il vescovo veniva sostenuto dalla chiesa stessa. Anche se oggi alcuni conduttori non sono sostenuti dalla chiesa, il principio rimane: non si deve condurre per un interesse. L'interesse non consiste solo nel denaro, ma anche in vantaggi spirituali e morali. 5. Non come dominatori di quelli che vi sono affidati. Dominare è l'inclinazione più naturale dell'uomo. Quando Dio creò l'uomo, Adamo ed Eva, disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Genesi 1:28. L'uomo è dunque nato per dominare, ma questa attitudine deve essere rivolta verso il creato e non verso le persone. Se quando un uomo redomina un altro sconfina nell'illecito, quanto più un conduttore che domina sui suoi fratelli in fede. Quando i credenti appartengono a Cristo, Gesù è il loro Signore. Dominare sui credenti significa occupare il posto di Gesù. Il vescovo domina sui credenti quando interferisce nella loro vita privata, quando non permette la loro crescita, quando si sostituisce alla loro coscienza, in modo talmente abile da essere in grado di produrre coscienza, e avendo ben chiaro anche quale genere di coscienza produrre. Sono arrivato a comprendere che se i sorveglianti signoreggiano è perché la Chiesa accetta questa situazione. Un conduttore non signoreggia se la Chiesa dice quello che pensa, perciò la colpa non ricade su una sola parte. Nell'Antico Testamento Dio attribuisce la colpa di una condotta scellerata a tutto il popolo, governanti e governati compresi. Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti, e il mio popolo ha piacere che sia così. Geremia 5:30-31. Un popolo che accetta delle guide inique compie cose orribili e spaventevoli. 6. E tutti rivestitevi di umiltà. L'opinione che un conduttore non debba essere sottomesso a nessuno non è biblica. Infatti Pietro ha ordinato la sottomissione non ai giovani soltanto, ma a tutti. È chiaro che i conduttori saranno sempre l'autorità da rispettare, ma questi a loro volta saranno sottomessi ai credenti che hanno dei compiti nell'ambito della Chiesa. Così scrisse Paolo. Ora, fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefana, sapete che è la primizia della Caia e che si è dedicata al servizio dei fratelli. Vi esorto a sottomettervi anche voi a tali persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune. 1 Corinzi 16:15-16. Con quella anche voi, Paolo dava per scontato di essere lui stesso per primo sottomesso a dei semplici credenti. Un sorvegliante che non sa essere sottomesso e ubbidire a chi ha autorità in altre mansioni non è in grado di governare. L'anziano al di sopra di ogni sospetto è una figura inesistente, perciò se la Chiesa è imparziale verso i vescovi eviterà molti dolori. E 1 Tessalonicesi 5:12-13. Fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Ancora una volta Paolo ordina ai credenti di tenere in considerazione i conduttori e una valutazione particolareggiata di ciò che ha detto mette in evidenza due aspetti o verità. Uno, di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Un conduttore non va stimato solo perché guida ed esercita autorità su di un'assemblea, anche perché egli può svolgere il suo compito non sempre in modo corretto, quindi è assurdo che egli pretenda la stima quando nei fatti non lo merita. La Scrittura esorta a considerare l'opera del conduttore e a onorarlo in relazione all'opera che svolge, non in base alla stima che ne abbiamo. In effetti Paolo si riferisce a coloro che vi istruiscono e che si affaticano, e ciò presuppone un duro e serio lavoro. In merito alla sottomissione nei confronti dei conduttori, occorre sottolineare che la sottomissione è una cosa, la stima un'altra. Si può essere sottomessi al conduttore ma non averne stima, e l'episcopo che pretende la stima non esercita la giusta autorità. Inoltre, anche il migliore conduttore non possiede tutti i doni, perciò è normale che sia stimato per un dono e non per un altro. 2. Vivete in pace tra di voi. Questa affermazione è significativa. Presbiteri e Chiesa devono avere una relazione di pace. La pace non si instaura automaticamente, perciò essa va cercata e mantenuta mediante dei rapporti leali, aperti e basati sulla fiducia fra i vescovi e la Chiesa. Un anziano non può svolgere una conduzione serena ed efficace se non è in pace con i credenti, perciò non può permettersi di avere rancori, cose in sospeso o antipatia fosse anche solo verso alcune pecore. Un conduttore saggio cercherà, oltre al rapporto fraterno, anche quello dell'amicizia, perché essa è un vincolo che può superare le difficoltà esistenti in una relazione basata solo sul piano spirituale. Verificandosi un eventuale contrasto spirituale, l'amicizia può rendere meno tesa la situazione, può rendere possibile un confronto sereno e può creare quella pace tanto auspicata da tutti. Purtroppo l'amicizia è poco ricercata nella comunità, ed in questo senso è auspicabile che il conduttore sia il primo a tendere la mano alla comunità, e la comunità incoraggi un conduttore a ricercarla, perché l'amicizia ci rende sempre presente anche nei momenti difficili. C'erano due amici che erano insieme in guerra. Il combattimento era terribile e tanti morivano. Quando uno dei due amici era ferito e non riusciva a tornare in trincea, l'altro tornava indietro a prenderlo, anche contro gli ordini del suo superiore. Una volta uno dei due fu ferito gravemente, ma era comunque riuscito a trasportare l'amico che era morto. L'ufficiale guardò il soldato morto e con un cenno della testa disse: «Non valeva la pena». Il ragazzo, udendo il commento, rispose: «Ne è valsa la pena, signore, perché quando sono arrivato vicino a lui mi disse: "Sapevo che saresti venuto". Avere un amico significa non sentirsi soli». Dopo queste riflessioni in merito ai conduttori, mi sembra di comprendere che la responsabilità maggiore di una conduzione sbagliata ricada sulla Chiesa. Ai credenti sono richieste poche cose, sottomissione e obbedienza, ma ciò non significa tacere sempre e lasciare correre, ma far presente ciò che non va, senza avere uno spirito arrogante e contestatario. Se facciamo sapere ai conduttori che siamo con loro, che desideriamo aiutarli, se svolgiamo con serietà e impegno ogni compito datoci, se non manchiamo di pregare per loro, allora difficilmente capiteranno improvvisamente cose spiacevoli. Inoltre vi sarà il premio di vedere incoronato in cielo colui al quale siamo stati sottomessi. Un'ambizione, questa, che stimola pecore e pastori. Aprile 2007. Ellero. ILCOLLEGIODE. ICONDUTTORI. Come distruggere il collegio dei conduttori e, in tuo potere, aiutare o distruggere il collegio degli anziani. Prova soltanto a mettere in pratica le seguenti tattiche del diavolo e ti renderai conto di quanto puoi rendere difficile il compito dell'anziano. 1. Non fare quello che lui ti chiede a meno che non ti senti di farlo. 2. Non fare quello che ti chiede a meno che non lo comprendi e sii perfettamente d'accordo con lui. 3. Dimentica i compiti che ti sono stati assegnati. 4. Fai quello che egli ti dirà, ma borbottando e di malavoglia. 5. Fatti spiegare una cosa nei minimi particolari prima di deciderti a farla. 6. Prendi ogni cosa che egli dice come un'offesa personale e porta rancore nel tuo cuore. 7. Non prenderti mai il disturbo di chiarire con lui un malinteso. 8. Fai notare costantemente che tu hai ragione e che hai esperienza e una vita spirituale superiore. 9. Metti sempre in dubbio la saggezza delle sue decisioni aspettandoti sempre il peggio. 10. Non mancare di dire "l'avevo detto io" quando egli commette uno sbaglio. 11. Afferma la tua autorità su di lui, specialmente quando egli è assente. 12. Correggilo costantemente, dagli dei consigli, specialmente alla presenza degli altri. 13. Trascura quanto più puoi di passare del tempo in preghiera assieme. 14. Poni una cura particolare nel rilevare tutti i suoi principali errori ed assicurati che tutta la Chiesa ne venga a conoscenza. 15. Trattieniti con lui sino a tardi parlandogli dei suoi errori e del come dovrebbe, secondo te, guidare una Chiesa. Come aiutare il collegio dei conduttori. 1. Medita costantemente sulle centinaia di passi biblici che esortano ad amare il prossimo. 2. Ricordati quello che dice il libro di Giacomo a proposito dei peccati della lingua. 3. Ricordati degli insegnamenti dei proverbi riguardanti la saggezza, i consigli e i pettegolezzi. 4. Fagli sapere che sei con lui e che desideri aiutarlo in ogni modo possibile. 5. Fai quello che ti dice di fare. Ogni lavoro è importante, per quanto insignificante possa sembrare. 6. Quando vedi qualcosa che deve essere fatta, falla senza aspettare che ti venga chiesta. 7. Se il collegio fa qualcosa che ti sembra essere un evidente errore, vai da lui con amore e umiltà e faglielo sapere. 8. Pensa che il collegio degli anziani non è perfetto e che anch'esso deve, come tutti, imparare da Gesù. 9. Ricordati che i più grandi uomini di Dio hanno sbagliato. Solo quelli che fanno qualcosa sono soggetti a sbagliare. 10. Ricordati di pregare quanto più possibile per il collegio degli anziani e soprattutto per quegli anziani che ti sembrano i più deboli. 11. Ricordati e riconosci che il nostro nemico comune è Satana e che può essere vinto mediante la preghiera e l'amore fraterno. Uno dei compiti più ardui è quello di mantenere unita la Chiesa. Impossessiamoci ora per fede di quell'unità che è necessaria per far muovere vittoriosamente la Chiesa. ILVEROPASTORE. Se Abele offrì a Dio dei primogeniti del suo gregge, ciò sta a significare che, dopo tutto, quel gregge apparteneva più al Signore che a lui. Il compito dei pastori di anime è quello di pascere il gregge di Dio. Dunque, se il gregge appartiene a Dio, non è più degli anziani. I pastori cristiani non devono signoreggiare sul gregge, ma devono semplicemente curarla, nutrirla e farla crescere in libertà. Gesù ebbe una visione piena d'amore e di compassione per il gregge, che non era ancora suo gregge, e iniziò a nutrirlo preparando per esso un gruppo di pastori. Il vero pastore non offende, ma difende il gregge. Quando Gesù venne arrestato nell'orto degli ulivi per opera dei soldati mandati da falsi pastori, mise in luce il carattere del vero pastore, preoccupandosi non di se stesso ma del suo piccolo gregge. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. Giovanni 18, 4 a 9. I pastori costituiti dal sommo pastore Gesù Cristo, seguendo il suo esempio, si impegnano perché nessuna pecora affidata a loro si perda. Gesù pregò: Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati, li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Conservare il gregge nel nome di Gesù Cristo, come Gesù lo conservò nel nome del Padre, significa imprimere in esso il carattere del proprietario e non il proprio umano carattere. Si riscontrano pastori e pecore che non hanno nulla del carattere del Signore, adirati, litigiosi, gelosi, invidiosi, avidi, malvicenti, sospettosi del male, avari, tristi, ipersantissimi, gonfi. Ma nessuna pecora del gregge di Dio perisce se è curata da un pastore eletto da lui, tranne quella sorda ad ogni insegnamento insanabilmente ribelle, che frequenta abusivamente il gregge, figlia della perdizione. Anche il pastore a sua volta è pecora del gregge curato dal sommo pastore Gesù Cristo. Perciò anche lui è soggetto a debolezze, a tentazioni e prove. Bisogna dunque aiutarlo, anche lui ha bisogno di consigli e di consiglieri, di una pecora amica. Guai ai pastori che depredano il gregge! Tutto quel che il gregge produce è per la sola gloria di Dio e non dell'uomo. Non devono esserci nella Chiesa pastori padroni, né di greggi, né di ovili, né di anime, né di locali di culto, o altri beni congeneri.